Hashtag Autotrasporti. Buongiorno, buongiorno da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. Nella puntata di oggi gettiamo nuovamente un faro sulla rivoluzione in atto nella logistica urbana, rivoluzione scatenata dalla crescita senza freni dell'e-commerce. Giusto per capirci, secondo dati diffusi da Netcom, nel 2016 il valore degli acquisti online degli italiani ha fatto segnare un incremento del 18% rispetto al 2015. Il giro d'affari sfiora i 20 miliardi di euro, tra prodotti 9 miliardi e servizi 10,6 miliardi. Il turismo si è confermato il primo comparto con una quota del 44%, a seguire l'elettronica di consumo e l'abbigliamento. Tra i settori emergenti, l'alimentare, l'arredamento e i giocattoli. Più prodotti ordinati e acquistati via web significa più consegne ad ogni punto, più furgoni in movimento, maggiori esigenze da parte degli acquirenti che pretendono di ricevere a domicilio di tutto e al più presto. Per il comparto logistico è fin troppo evidente, la gestione di queste tendenze si fa sempre più problematica. Alla logistica legata all'e-commerce, il Freight Leader Council, l'associazione che si propone come punto di riferimento e di consulenza per il mondo dei trasporti e della logistica, ha dedicato il quaderno 26, in pratica il suo rapporto annuale. È un'analisi del fenomeno dalla parte degli operatori del settore che contiene suggerimenti per soluzioni che possano garantire efficienza, qualità e sostenibilità dei servizi. Antonio Malvestio è il presidente del Freight Leaders Council. Fare un ordine oggi per avere la consegna domani ormai è l'assoluta normalità. E questo sta provocando una situazione che non va nella direzione giusta. Non va nella direzione giusta perché per accelerare le consegne si tende a disottimizzare. Perché non è possibile oggi gestire una consegna da pochi punti a praticamente ogni portone di ogni città. È un problema irrisolvibile e quindi con consegne rapide e disottimizzate i costi salgono. E bisogna comprimere i costi tagliando da qualche parte. E dove si va a tagliare? Inevitabilmente nel costo della manodopera. E questo è un altro grosso problema. La logistica dovrebbe essere moderna quanto è moderno il mercato dell'e-commerce e invece gestisce lavori che devono essere fatti da persone di basso livello, i facchini, i picker che raccolgono la merce negli scaffali, i fattorini che le consegnano, che vengono oggi assunti come si assumevano 40 anni fa per i muscoli, devono correre in bicicletta, devono sollevare pesi e alla fine vengono compressi i loro salari. Probabilmente questo è il più grande problema che c'è dietro l'e-commerce. Dicevamo che il quaderno 26 contiene anche proposte, sentiamo ancora Malvestio. Nel quaderno vengono raccomandati 10 punti. Il primo punto è che bisogna far capire all'acquirente che la consegna non è mai gratis. Bisogna far capire cosa c'è dietro. E quindi l'acquirente, secondo noi, dovrebbe essere educato in questo da tutti gli attori, sia chi vende attraverso internet, ma anche dai trasportatori che effettuano le consegne. È come andare in autobus, richiede il pagamento di un biglietto, fare la consegna devi richiedere un pagamento. Poi, commercialmente, questo pagamento può essere gestito in altri modi. In questo modo si può far capire all'acquirente che probabilmente non devi richiedere la consegna a domicilio per la maggior parte delle cose che si ordinano, ma queste merci devono essere consegnate ai punti di consegna, agli armadi oppure a dei negozi attrezzati per questo. E se si vede quello che sta succedendo negli altri paesi, in Inghilterra ormai si consegnano 1,5 miliardi di pacchi all'anno, non si può gestire, come ho detto, una consegna a domicilio con questi volumi, bisogna andare in punti di raccolta. Senza questa educazione il consumatore non capirà che la consegna a casa deve immancabilmente costare di più di una consegna ad un punto di raccolta. Voltiamo pagina. Nei giorni scorsi l'INPS ha diffuso la circolare sulla decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi internazionali. Un provvedimento atteso da tempo, ma che alla fine ha suscitato una certa delusione da parte delle associazioni del mondo dell'autotrasporto. In sostanza dicono, così come è formulata la misura, non è uno strumento efficace per arginare la concorrenza dei paesi dell'est. Particolarmente critiche Confartigianato Trasporti e Anita. Sentiamo Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Noi avevamo puntato a un provvedimento che poteva dare un sostegno a tutte le imprese che sono impegnate sul trasporto internazionale, perché soprattutto anche le imprese strutturate hanno la forte concorrenza dei vettori dell'est, che hanno, come sappiamo, il costo dei conducenti molto molto più basso. Le imprese strutturate, per far fronte a queste concorrenze, fanno la delocalizzazione, si vanno all'estero. Allora per lo Stato sarebbe stato interessante fare una manovra per queste imprese proprio per tenere i posti di lavoro in Italia. Bisognerebbe questa misura portarla avanti come le avevamo richiesto. Capiamo che c'è un problema di accordi con la Comunità Europea, la strada l'abbiamo delineata, si potrebbe presentare alla Comunità Europea il progetto. Noi siamo sicuri che la Comunità Europea, visto il dumping sociale che è nato, potrebbe anche accettare una misura del genere che faccia l'Italia per i propri trasportatori. Un'altra questione che in questi giorni agita il mondo dell'autotrasporto è l'emendamento approvato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato, che dirotta 150 milioni in 3 anni dai fondi per l'autotrasporto a quelli per il trasporto marittimo. Sentiamo ancora Baumgartner. Questa è proprio una misura che non riusciamo a capire, perché da come sentiamo queste misure verrebbero dirottate sulle vie navigabili, che in Italia sappiamo che hanno un'incidenza minima. Sono risorse che, se mancano al nostro settore, finirebbero a bloccare l'investimento nel nuovo del parco. Sappiamo già oggi che il parco circolante media ha l'età di 13 anni in Italia, dovrebbe essere rinnovato per maggiore sicurezza della strada e soprattutto anche per bloccare l'investimento nel settore intermodale, e si bloccherebbe il passaggio delle merci sulle ferrovie. Sulla questione dei fondi per l'autotrasporto e sugli altri temi sul tappeto, UNATRAS, l'Unione delle Associazioni di Categoria, ha chiesto e ottenuto un incontro al Ministero. Si terrà mercoledì 29 novembre. Il pacchetto mobilità, che ogni tanto chiamiamo anche pacchetto stradale, proposto dalla Commissione Europea, contiene una serie di provvedimenti nel segno della sostenibilità con obiettivi precisi quanto ambiziosi. Ne abbiamo parlato diffusamente già nel nostro programma e nelle scorse settimane è stata presentata la seconda tranche di misure. Tra queste, alcune intendono sostenere lo sviluppo delle alimentazioni alternative ai carburanti fossili. In genere, quando si pensa ai motori ecologici, il riferimento diretto è all'elettrico e si parla un po' meno dell'idrogeno. Eppure all'inizio del millennio erano state poste aspettative piuttosto alte sullo sviluppo di questa forma di alimentazione alternativa nell'ambito dell'automotive. In Europa la prima auto a idrogeno è stata messa in vendita 2 anni fa. In Italia esiste una sola stazione di servizio, è a Bolzano. Ora, anche alla luce delle politiche dell'Unione Europea, si torna a parlare di uno sviluppo dei motori a idrogeno. La questione riguarda pure i mezzi pesanti. Negli Stati Uniti già circola un modello di TIR alimentato a idrogeno, come ci spiega in questa intervista Angelo Moreno, presidente dell'Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile. Un camion meraviglioso, di quei grossi camion che si vedono nei film americani, quelli che fanno coast to coast. Ha fatto un camion a idrogeno, 1200 miglia di percorrenza, e li dà in leasing. E il primo milione di miglia lo dà gratis, nel senso che il pieno di idrogeno lo fa lui. Ha prenotazione adesso, non so, per 500-1000 camion, quindi i camionisti americani hanno capito che è un investimento. In Italia quando mai lo vedremo? Diciamo, non so fare una previsione, nel senso posso esprimere un desiderio, e cioè il più presto possibile. E la maggior parte dei camion italiani sono nella fascia, diciamo, di grande inquinamento, quindi sicuramente ci sarà una politica di incentivazione alla rottamazione dei camion inquinanti. Potrebbe essere che una parte di questi incentivi potrebbero essere dedicati al camion a idrogeno, che esiste già e quindi potrebbe non essere così lontano nel tempo. Esiste anche un treno a idrogeno? Sì, entreranno 2 esemplari di questo treno, entreranno in servizio reale in Germania su una tratta che prima era una tratta diesel, e le ferrovie tedesche hanno fatto un'analisi costi-benefici fra elettrificare, quindi con palificazione eccetera, quella linea oppure mettere un treno a idrogeno. Hanno visto che era molto ma molto più conveniente farlo a idrogeno. 2 esemplari entreranno in servizio l'anno prossimo e i vari lender tedeschi ne hanno ordinati altri 50 esemplari. Ora un paio di notizie dall'Europa. Prima, a proposito della circolare sulla decontribuzione, si parlava di un mercato dell'autotrasporto inquinato dagli squilibri determinati dalle differenze dei costi operativi. La conferma arriva anche dalla Germania. Secondo la BGL, che è un'associazione di categoria, nei primi 8 mesi del 2017 la quota di mercato degli autotrasportatori tedeschi, misurata in chilometri percorsi sulle autostrade e sulle strade a pedaggio, è scesa dal 67,6% 57% al 57,7%. In Slovenia dal 1 aprile sulle autostrade entrerà in vigore il pedaggio elettronico obbligatorio per i veicoli con massa superiore alle 3 tonnellate e mezza. Gli autotrasportatori dovranno registrarsi al sistema DARS Go e richiedere il dispositivo da montare sul mezzo. Da qualche giorno è possibile ottenerlo anche alle frontiere e in alcune aree di sosta. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, grazie per l'attenzione. Vi ricordo anche l'appuntamento del sabato con Massimo De Donato, che conduce alle 13.15 Container. Noi invece ci risentiamo lunedì alle 13.45 da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.